beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. At a political rally in Milan, Silvio Berlusconi shaking hands and talking to supporters. Then, out of the blue, a punch that left Prime Minister Berlusconi bloodied and his country in shock. Questo è un servizio di CNN per provare a sondare come il mondo è venuto a conoscenza dei fatti di Milano di ieri sera, della aggressione al Premier Silvio Berlusconi. Lo spazio dedicato dai giornali anglosassoni alla notizia è direi grandissimo, forse direi anche enorme. Sono comunque titoli di prima pagina, apertura dei servizi dei telegiornali, fotografie sparate su grandi spaziature per testimoniare i fatti e anche l'impressione destata dall'evento. La BBC ad esempio ha rimandato più volte un servizio in cui il corrispondente che si chiama Duncan Kennedy, oltre a raccontare la breve successione dei fatti dell'aggressione di Berlusconi da parte di Massimo Tartaglia, poi sottolinea anche l'atteggiamento avuto dal Premier subito dopo essere stato colpito. Ha detto, scrive Duncan Kennedy, con una tipica esibizione di uno spirito di sfida da combattente politico, Berlusconi ha voluto mostrarsi poi alla folla che lo circondava in quel momento con grande agitazione. Poi vengono anche rievocati delle aggressioni subite di recente da pari grado di Silvio Berlusconi, ovvero altri primi ministri degli scenari degli stati contemporanei, ad esempio Erdogan, che nello scorso agosto è stato colpito con un pugno da un uomo durante una visita a Trabzon, e poi il primo ministro neozelandese John Key, che a un evento gestito dalla comunità Maori a sua volta è stato aggredito alcuni anni or sono. CNN si limita a riportare comunque la successione dei fatti. Il New York Times invece dedica alla vicenda un articolo a quattro mani firmato da Elisabetta Povoledo e Rachel Donedio, in cui soprattutto si sottolinea l'impatto televisivo della notizia sugli italiani, ovvero come tutto poi sia immediatamente transitato attraverso l'imponente impianto televisivo italiano, e che queste immagini abbiano in questo modo avuto un effetto particolarmente impressionante sulla platea della domenica. Raccontano le due inviate che si vede un Berlusconi scosso e sconfortato, queste sono le parole con cui è descritto. Ancora il Financial Times scrive, anzi il Wall Street Journal scrive, nonostante il supporto a Berlusconi resti forte tra i suoi sostenitori, nel corso di quest'anno una fetta dell'elettorato italiano è divenuto man mano più arrabbiata nei confronti del Premier, provando a mettere a cercare, no, le radici di questa aggressione. Il Guardian scrive, negli anni Berlusconi ha subito molti colpi metaforici, ma fino a ieri nessuno ne aveva sferrato mai uno reale. Financial Times, eccolo qua, l'incidente va ad aggiungersi ad una atmosfera politica già avvelenata. C'è anche Haaretz, il quotidiano israeliano, che dà ampio spazio alla notizia dell'attacco a Berlusconi. Pubblica anche il commento di un alto dirigente dello Shin Bet, il servizio segreto responsabile della protezione del premier israeliano, e afferma che se l'aggressore ha potuto compiere questo gesto è a causa di una apparente insufficiente coordinamento tra la rete esterna e quella interna di guardie che difendono il presidente del Consiglio. He's been dogged by allegations of corruption and is in the middle of a messy divorce from his second wife. Quindi c'è chi cerca veramente le motivazioni al di là della descrizione dei fatti, e gli americani naturalmente non ci hanno messo molto a connettere la storia di Milano, di Piazza del Duomo di ieri, con quello che è avvenuto alla Casa Bianca in tempi assai recenti, quando la coppia Trek e Michael Salai è riuscita a entrare all'interno della Casa Bianca e addirittura a presentarsi a Barack Obama, che teneva un pranzo di gala per il primo ministro indiano senza che nessuno li fermassero. Quindi la questione sostanziale diventa quella della sicurezza dei leader, soprattutto messa fortemente, altamente in connessione con la questione dello strapotere televisivo, ovvero di una motivazione altra, no, a quella dell'odio, dell'ostilità nei confronti di una alta personalità per compiere gesti di questo genere. Ci può essere alla base di tutto anche la visibilità, la richiesta di visibilità, la pretesa di entrare a far parte, passando, no, per un ingresso posteriore, per un ingresso proibito, entrare a far parte della grande cronaca mondiale, quella che sulle televisioni lancia facce, volti, gesti, comportamenti e anche, soprattutto, nomi, magari pescati nell'anonimato, li lancia in primissimo piano. Non a caso viene rievocata dalle televisioni americane una figura interessante, quella di Richard Waver, altrimenti noto come l'Handshake Man in America, l'uomo della stretta di mano. Noi abbiamo dei personaggi non troppo distanti. Costui riuscì per ben 3 volte ad avvicinare un presidente degli Stati Uniti in carica e a stringergli la mano, addirittura per 2 volte riuscì a penetrare nella Casa Bianca, e oggi si riesaminano quei fatti dicendo: certo, fosse stato malintenzionato, puntini puntini, la questione della sicurezza sta entrando a tutti gli effetti nel XXI secolo. Primo piano. What grade would you give yourself for this year? Good solid B+. Allora, è andata in onda l'intervista, la tanto annunciata intervista di Oprah Winfrey alla coppia Obama nella loro attuale temporanea residenza, ovvero alla Casa Bianca. Oprah è una che tratta le cose con un certo tocco, un certo approccio, un certo modo di fare, una certa capacità di entrare, no, nell'intimo, nel confidenziale dei personaggi. E poi tra Oprah e Obama e Barack Obama ci sono dei trascorsi importanti di collaborazione e cooperazione. Anche a Oprah deve dire grazie Barack Obama. Prima domanda che gli ha appena fatto, fra le tante che sono andate in onda sulla televisione americana, è il voto che Obama dà a se stesso come presidente, il primo anno di presidenza. Lui sarà un B+, che nella votazione americana, adesso ho letto su diversi giornali italiani una traduzione del B+, c'è chi azzarda addirittura un 8, secondo me il B+ è un po' meno di un 8, un 7,5, forse scenderei perfino al proverbiale 7+ italiano. Comunque lui si dà in ogni caso un bel voto, sentiamo perché, via. We stabilized the economy, prevented the possibilities of a Great Depression or a significant financial meltdown. The economy is growing again. We are on our way out of Iraq. Insomma, Barack Obama dice: guardate che mi è cascata sulla testa una bella quantità di cose da fare, abbiamo ereditato il più imponente sistema di sfide dai tempi di Roosevelt, tante cose restano ancora da fare. Anche per questo dice che si dà solo un B+, e la riforma della sanità per esempio non è stata ancora approvata. A quel punto lui punta a un voto molto più alto. So B+, what could you have done better? Well, B+ because of the things that are undone. Okay. Healthcare is not yet signed. If I get healthcare passed, eccolo qua, dice, la firma ancora sotto quell'atto non l'ho avuta, la riforma della sanità ancora non l'ha fatta, chiarendo che la sua priorità assoluta in questo momento è proprio sanità. E tra l'altro voci tutt'altro che tranquillizzanti corrono in questo lunedì a Washington. Joe Lieberman ha detto che non voterà così come è fatto al Senato, come verrà presentata al Senato, o sembra che verrà presentata al Senato, il progetto per la sanità di Obama. C'è una questione che non lo convince affatto, che riguarda sempre la public option, ma con Lieberman, Mr. Bastian Contrari, che si leva di torno, sparisce il numero magico, quel 60, che permette ai democratici di contrastare qualsiasi tentativo di interferenza repubblicana. Vedremo nei prossimi giorni. Sentiamo ancora Obama da con Oprah. Do you remember what your favorite Christmas gift was as a child? Oh, it was a dollhouse, and it was one. It was a metal dollhouse. In puro, purissimo stile Oprah, che da signora a signora, da borghese a borghese, chiede a Michelle, a cui potrebbe fare migliaia di domande, però gli chiede, visto che è Natale, ma qual è stato il più bel regalo che hai ricevuto per Natale? Anzi, lo chiede ai coniugi, agli Obamas. Lei risponde: una casa per le bambole, una casa di latta, di ferro, in cui disponevo tutti questi piccoli mobilini, no, di plastica. E lui, se permettete, con nostra personale grandissima soddisfazione e poi da ragazzo vero della strada, dice: un bel pallone da basket. Santa's got a beard that's long and white. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Buongiorno America. The last time I saw this hall full to overflowing was when I had the duty to debate Milton Friedman. Questa è la voce di Paul Samuelson che parla all'interno delle sue amate stanze del Massachusetts Institute of Technology, il MIT, l'eccellenza accademica americana, e oggi è con solennità, anche con commozione, che i media americani salutano la scomparsa all'età di 94 anni di, appunto, Paul Samuelson, padre dell'economia moderna, keynesiano assoluto, maestro di personaggi del presente che siamo abituati a rispettare come i veri interpreti degli andamenti planetari, come Bernanke, Krugman o Stiglitz, e soprattutto di casa veramente in quel MIT, no, che dell'economia americana, ma anche di tanta scienza americana, è diventato il laboratorio più importante. Il New York Times ricorda la prima lezione che Samuelson impartì a John Fitzgerald Kennedy, che lo volle particolarmente vicino a sé nella sua breve esperienza presidenziale. Quella prima lezione venne impartita sul mare, nella tenuta di Annie Sport, casa Kennedy, preceduta da una colazione su uno yacht a cui partecipavano politici, intellettuali di Boston. Ricordo Samuelson: mi aspettavo dei piatti eccezionali, invece mi servirono salsicce e fagioli. Però poi Samuelson e Kennedy parlarono e le cose dette da Samuelson a Kennedy ebbero il loro effetto. Kennedy si sarebbe rivolto a Samuelson dicendo: ma come, io ho fatto appena campagna per la responsabilità fiscale e i budget in equilibrio, lei mi suggerisce che la prima decisione dovrebbe essere di tagliare le tasse. Poi in realtà Kennedy non avrebbe fatto in tempo successivamente a tagliare le tasse, vittima dell'attentato a Dallas, ma gli interventi e soprattutto un atteggiamento di questo genere nell'America dei primi anni 60 sarebbe stato poi amministrato da Lyndon Johnson. Se ne va Paul Samuelson, e nel frattempo il grande settimanale Time, il più rispettato del mondo, si occupa di uno sport che pratica sempre quando arriva dicembre: eleggere il personaggio dell'anno, la persona dell'anno per naturalmente il 2009. Io vi ricordo che nel 2007, tanto per fare un po' di storia, toccò a Putin. Occhio, è la persona dell'anno, non necessariamente deve essere un eroe, un personaggio positivo, è la persona dell'anno, quella su cui si sono spesi e libri, discorsi, articoli, media, opinioni, passioni e quant'altro. Nel 2007 Putin batté Al Gore, J.K. Rowling, l'autrice della saga di Harry Potter, Hu Jintao e il generale Petraeus. Nel 2008 vinse naturalmente Barack Obama, che ebbe la meglio sul presidente francese Sarkozy, su Henry Paulson, su Sarah Palin, no, appena apparsa sulla scena americana, e su Zhang Jimou, regista dei grandi eventi delle Olimpiadi di Pechino. Adesso siamo alla nomina del 2009. Ci sono già sul sito di Time delle nomination molto interessanti, sono anche gli orientamenti del pubblico che possono dare dei loro pareri, però poi alla fine la redazione si riserva una scelta che tiene conto di quanto dice il pubblico, ma che resta comunque indipendente. Sentiamo qualcuno dei nominati. Liebe politische Freunde, liebe Bürgerrechtler, Angela Merkel, il cancelliere tedesco, capace di dice la motivazione di rendere sempre più solida la sua posizione politica all'interno e all'esterno della Germania, nonostante grandi problemi e difficoltà praticamente quotidiane. A fianco a Angela Merkel i politici non sono moltissimi, anzi a ben vedere sono assai pochi. C'è una politica repubblicana americana, si chiama Olympia Snowy, la repubblicana del Maine, che ha votato in favore della riforma della salute e così facendo ha un po' destabilizzato, no, gli andamenti di questo complicato voto. Ma invece le preferenze del pubblico americano vanno non a una singola persona ma a una moltitudine. Pensate che 573.000 voti per distacco, il soggetto preferito come persona dell'anno 2009 per il pubblico sono i dimostranti per le strade di Teheran, i dimostranti iraniani. Al secondo posto arriva naturalmente Barack Obama e precede poi un'altra serie di personaggi invece che sono un po' misti, no? tra sport, società, spettacolo e quant'altro, per esempio questo qui. And a fair start, Asafa Powell. Usain Bolt is also out well. Here they come down the track. Usain Bolt sprinting ahead, winning. Quello che ha fatto cacciare, come dire, le grida, le voci più invereconde ai telecronisti sportivi del 2009, quelli che hanno raccontato lo sprint di Usain Bolt, che tra l'altro è al quarto posto nella classifica dei possibili, per il pubblico, possibili personaggi dell'anno. Poi ci sono anche i pirati della Somalia, pensate un po', c'è il generale McChrystal, quello che ha il mandato di gestire l'affare politico internazionale dell'anno, ovvero il fronte medio orientale, la questione Afghanistan, i cui risvolti quasi ogni giorno raccontiamo. C'è Timothy Geithner che si occupa dell'economia americana e dei suoi andamenti, pochissimi voti devo dire da parte del pubblico. C'è Ben Bernanke invece che gode di ben altra stima anche da parte del pubblico, il capo della Federal Reserve. Per quanto riguarda Barack Obama, insomma, lo stesso Time dice effettivamente lo stimolo economico di Saad da 787 miliardi di dollari che ha fatto passare resta una pagina di storia del mondo, non solo dell'America, e forse sovrappiù ci ha messo anche il premio Nobel. Però ci sono anche dei contro, no? Quella disoccupazione al oltre il 10% in America, la guerra in Afghanistan che non se ne va, e poi un concetto bene o male è applicabilissimo: non è che può vincere esattamente tutto, no? Se rivincesse ancora sarebbe un senso, credo, di disagio, forse da parte dello stesso Barack Obama, come già a Oslo ha manifestato. Ecco un altro nominato a cui noi poi, insomma, dedichiamo un particolare affetto. Welcome to Macworld. Hello, I'm a Mac and I'm a PC. Are you going in for a checkup? Welcome to Macworld. Steve Jobs, quest'anno grossi problemi di salute per l'inventore del mondo Mac, anche la grande paura di perderlo, almeno di perderlo come mente. Invece è tornato ancora una volta al suo posto, sta guidando nuovamente le operazioni del marchio Apple e gli americani non smettono di adorarlo. Risulta al terzo posto per ora nel referendum popolare come persona dell'anno. Vedremo se i dimostranti di Teheran alla fine la spunteranno, e sulla copertina di Time, che come tradizione celebra questa assegnazione, questo riconoscimento, la persona avrà un milione di fudge. Bene o male è il momento dei bilanci, il momento delle classifiche, il momento dei ricordi, il momento in cui si mette in ordine quello che è successo in un anno. I media americani, ma anche quelli italiani, lo stanno facendo praticamente tutti i giorni. Noi seguiremo anche un po' le loro tracce qui a Buongiorno America, dove ci sono io, Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Fabio Cantadori. La mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook si chiama Redazione Jefferson 3, la replica è dopo mezzanotte, la diretta è dopo l'1:30 qui su Radio 24. State tutti bene.